i soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sembriamo già due vecchi coniugi sposati da 80 anni. Mi aspettavo almeno un mazzo di Rosatellum stamattina, invece ti sei presentato a mani vuote. Ma è come appunto i vecchi coniugi, gli anziani coniugi consumati dall'abitudine. Devo dimenticarmi tutte le ricorrenze, perché sennò che anziano coniuge sarei. Guarda, che alle 11 c'è il Consiglio dei Ministri che ti prepara un bel piatto per il weekend. Quindi, insomma, giustifico la tua distrazione nei miei confronti stamattina. Sono preso dalla rottamazione, dalla riapertura della rottamazione delle cartelle. Da, diciamo che anche se non hanno previsto di mettere in agenda stamattina il decreto fiscale, secondo me un po' di materiale per le prossime puntate di Due di Denari ce lo offrono stamattina. Tra l'altro, io vorrei dirti, Deborah, che questa qui è proprio la prima delle N fasi della manovra che ci terrà compagnia fino a Natale. Natale, esatto. Perché noi... Sono già tutto un brivido, mi vedi? lo vedo. Ti vedranno anche su Facebook i nostri ascoltatori cielo. Che ci seguono. Buongiorno. Sulla pagina 2 di Denari Radio 24 su Facebook, se volete vederci. Perché? Perché succederà questo. Decreto legge fiscale, poi disegno di legge di bilancio, poi il decreto legge fiscale dovrà essere convertito in legge, quindi verrà modificato. Ovviamente, sicuramente. Ma non sia quindi mai. Avremo un primo tempo di vigenza, esatto, e poi un tutto secondo il contrario tempo. Del secondo. Il disegno di legge invece non sarà subito vigente, ma diventerà legge intorno a Natale, e quindi avremo un ulteriore terzo tempo. E poi non so, io mi aspetto per la fine dell'anno l'abituale mille proroghe. Il panettone possiamo mangiarlo con il provvedimento confezionato e definitivo? Il panettone dovremmo mangiarlo, sì, forse ci mancherà ancora il mille proroghe, ma ne parleremo. Quando sarà Natale. Ti a porterò Capodanno. Sicuramente in regalo un disegno di legge di bilancio. Ti ringrazio molto. Invece quello che ti regalo io oggi sono i mutui. Oh, molto sono bene. I grandi protagonisti della nostra trasmissione di stamattina, perché... Come tu ben sai, perché voi ne scrivete tanto sul Sole 24 Ore, gli italiani amano la casa di proprietà, anche se l'investimento immobiliare qualche volta è traditore, perché se tu vuoi rivendere la casa e magari immagini di rifarci il prezzo a cui l'hai acquistata, qualche volta non va secondo le tue aspettative questa operazione, e quindi i ritorni non sono sempre quelli che ci si aspetta. Però un conto è l'investimento nel mattone, un conto è comprare casa per sé, per la famiglia e per, come dire, raggiungere e coronare un desiderio di vita. Oggi, peraltro, indebitarsi a lungo termine è molto conveniente, dato lo stato di salute dei tassi di interesse, che Mario Draghi ha promesso rimarranno così bassi ancora a lungo. Però bisogna avere a mente tutte le regole per sottoscrivere un mutuo sopportabile e che non faccia brutte sorprese, per cui oggi di questo parliamo. Che ne dici? Volentieri. Invitiamo anche gli ascoltatori a segnalarci le loro domande, le loro richieste di informazioni. I numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, anche quando c'è la pubblicità, il centralino c'è sempre. Loro lavorano sempre, sì. E poi c'è naturalmente il numero per i vostri SMS e WhatsApp: 349 238 6666. Ma se volete mandarci una email, scrivete a 2didenari@radio24.it. Allora partiamo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Mi ha sempre incuriosito l'utilizzo di questa parola, accendere il mutuo, perché io accenderei magari il piano di ammortamento su carta, gli darei fuoco qualche volta, quello sì. Sono quei misteri come il premio delle polizze, ma perché premio se devo pagarlo? Che proprio. Premio è? Infatti, guarda, dovremmo fare il bestiario dei termini, Mauro, perché tu da norme e tributi ce ne porti qualcuno, eh? E ieri tu ho lanciato un oblabile che so che ti ha molto colpito. Roberto Nedda, direttore marketing di Mutui Online, ben ritrovato. Trovato. Grazie, ben ritrovato a tutti. Come dico sempre agli ospiti che non incontriamo da un po' di tempo, non è ritornato, non è capitato in una gabbia di matti, e guardi là. Noi portiamo avanti sempre le nostre battaglie economico-finanziarie e fiscali, ma con una certa autorevole leggerezza. E certamente, perché serve parlare. Meno male. Esatto, perché bisogna rendere digeribili e sopportabili questi argomenti. Oltre a Roberto Anetta, saluto, perché è collegato telefonicamente con noi, Fabio Picciolini. Buongiorno. Buongiorno. Devo fare attenzione adesso a tutto il curriculum che devo indicare di Fabio Picciolini, perché è molto lungo. Noi lo abbiamo conosciuto quando era un dirigente di una grande associazione dei consumatori, adesso è all'ufficio studi dell'Istituto Italiano di Pagamenti, corretto Picciolini, consumerista? Associazione Italiana Pagamenti. e moneta elettronica. Esatto, quindi insomma, ma magari un giorno sfrutteremo anche le sue competenze in questo campo, però perché l'abbiamo chiamato per i mutui, Mauro? Adesso te lo racconto. Beh, gli faccio una domanda, così te lo racconta direttamente lui. Dov'era Picciolini il 4 agosto del 2009? O avvalersi della facoltà di non rispondere. No, ero in Sardegna in ferie e leggendo il Sole 24 Ore della mattina avevo visto che il 3 era stato firmato d'accordo fra ABI e Confindustria per la moratoria su alcuni finanziamenti delle imprese. E quindi? E perciò? E quindi il giorno dopo immediatamente ho fatto una lettera insieme al presidente della mia associazione all'ABI per dire perché solo le imprese e non anche i consumatori, i mutuatari in questo caso, no? E quindi era necessario trovare una soluzione perché la crisi ormai era già esplosa, ancora non virulenta come poi è stata negli anni successivi, ma già c'erano molte persone che non erano in grado di rimborsare la rata del mutuo. Erano esplosi i tassi interbancari in seguito al fallimento di Lehman Brothers, per cui in particolar modo le famiglie che avevano un mutuo a tasso variabile non riuscivano più a ripagare la rata perché era diventata veramente, era letteralmente esplosa. Quindi con Fabio Picciolini stamattina ci faremo un po' spiegare come si fa nel caso in cui si sia in difficoltà con il mutuo, anche se adesso le famiglie in questa condizione sono molte meno, ma ce ne sono ancora, mentre con Roberto Nedda faremo un punto di mercato per capire quanti mutui vengono erogati in questa fase, quali sono quelli più vantaggiosi e soprattutto come è composto questo mercato, perché in realtà la regina della situazione è la signora Surroga. La conosci, surroga. Mauro? Certo che anche tu come termini. Dai, ma questo è non più facile. Beh, vabbè, surroga è già un termine molto curioso, dai, un po' ricercato. Infatti, Roberto Nedda, cosa racconta l'ultimo osservatorio di mutui online? Come sta andando in questo momento questo mercato? Scattiamo subito la prima fotografia. Sì, la conferma è quella di favorevole di tassi ormai da parecchio tempo ai minimi storici e estrema facilità da parte delle banche di erogazione mutui sia per il costo del denaro e per la liquidità abbondante ormai da più anni, grazie anche agli strumenti messi in campo da Draghi e dalla BCE. Quindi un mercato che continua a essere particolarmente favorevole, dove sicuramente la surroga è stata fino adesso regina, ma attenzione, in questi ultimi mesi per la prima volta spunta, come dire, in testa alla volata il mutuo d'acquisto. Perché effettivamente dopo gli ultimi 2 anni in cui grazie proprio a dei tassi così bassi c'era stata una marea di mutui sottoscritti in anni più o meno recenti, perché i tassi erano talmente bassi e sono talmente bassi che risulta conveniente sostituire anche un mutuo fatto sono più di 10 anni fa. Irripetibili veramente. Assolutamente. Lo stiamo dicendo da un paio d'anni, però ancora continuano ad essere sì, così. Sì, sono sicuramente ancora in una fascia. Non sono i minimi storici assoluti, ma ci siamo discostati di pochi decimi di punto, quindi stiamo parlando veramente. Questo è un buon segnale, sì. Il fatto che la surroga, quindi si presuppone gente che cerca una condizione migliore rispetto a quella che ha ottenuto qualche anno prima, perda terreno rispetto ad altri mutui per l'acquisto ex novo, dovrebbe essere un buon segnale. Sì, diciamo che ha una duplice lettura, da un lato perché effettivamente nel tempo in tanti sono fortunatamente già riusciti a surrogare, termine non bellissimo, sì, ma efficace soprattutto in termini di risparmio, il mutuo sottoscritto precedentemente con risparmi veramente notevoli, perché chi aveva fatto magari sfortunatamente negli anni invece direttamente anteriori a questi ultimi, quindi parliamo del 2012-2013 quando c'era stata la crisi Grecia, crisi del debito italiano, crisi delle banche, tassi risaliti di un paio di punti e subito dopo riuscendo a sostituire quel mutuo ci sono delle persone che sono portate a casa un risparmio, quindi è prospettico nell'arco dei 20 o 30 anni di 70, 80, 90 mila euro, quindi come dire che il mutuo è venuto esatto, gratis. Qualche volta conviene imbarcarsi nella trattativa con la banca per modificare le condizioni, sì, magari tu non vedi il beneficio lì a brevissimo termine, non te ne rendi conto, poi basta fare un calcolo in prospettiva. Ma infatti questa cosa è molto vera e soprattutto spiega il perché la surroga stia avendo una coda così lunga, perché quello che tutti ci si aspettava è che a un certo punto dopo la massa di mutui surrogati ci sarebbe stato un repentino calo e quindi tornando su percentuali molto più basse. Invece siccome tuttora la surroga rappresenta, nonostante questo testa a testa che si sta verificando negli ultimi mesi, un buon 40% delle erogazioni complessive, questo si spiega anche con il fatto che molti sono diventati consapevoli del possibile risparmio in maniera un po' tardiva, un po' perché non tutti sono particolarmente attenti al mutuo e sì, magari tu già paghi una rata sostenibile e non pensi di poterla migliorare ulteriormente. Senti dire che i tassi sono più bassi, però dici, vabbè, ma tanto cosa vuoi che risparmi? Oppure hai anche fatto una simulazione, ma siccome eri stato fortunato o eri stato bravo e avevi fatto un mutuo ad un tasso abbastanza conveniente, il tuo risparmio rispetto alle grandi cifre che abbiamo detto prima era, tra virgolette, limitato a 10, 15 mila, 20 mila euro. Magari molti si sono anche sentiti un po' delusi e hanno detto, insomma, per un risparmio così, tra virgolette, piccolo, non sto a imbarcarmi in una roba amministrativa complicata, oppure aspetto per vedere se magari i tassi scendono ancora. Nel momento in cui i tassi non sono scesi più perché erano arrivati ormai a un limite al di sotto del quale ben difficilmente potevano andare, e invece adesso si comincia a parlare di un potenziale rialzo dei tassi, anche se in un orizzonte abbastanza lontano, qualcuno si è ricordato di quel calcolo che aveva fatto e dice, magari 10-20 mila euro, piuttosto che lasciarli alla banca, me li porto in casa io. O magari un altro deterrente può essere rappresentato dal fatto che si ha un po' di sfiducia nei confronti della disponibilità della banca a fare queste operazioni, oppure, non lo so... rimane anche un po' il fatto che, nonostante di surroga, insomma, soprattutto da questi microfoni, se ne parli e ne parliamo con voi da anni, e ci sono tanti che tuttora non conoscono bene lo strumento, pensano che sia comunque farraginoso, complicato, o magari oneroso anche. E soprattutto oneroso. Invece, fortunatamente, l'abbiamo detto tante volte, ma anche qui la ripetita Juvent, la procedura è assolutamente a costo zero. È una procedura ormai automatica tra banche, per il quale il cliente non deve praticamente fare nulla se non fare una richiesta di surroga alla nuova banca, non si deve impelagare in difficoltà burocratiche particolari, per cui nell'arco di un mese o due al massimo il mutuo può essere sostituito, quindi parte da subito il possibile che non è, risparmio. Lo dobbiamo ricordare, un tempo molto elevato, visto che stiamo ragionando di impegni che durano invece 10, 20, 30 anni. Esattamente. 20, 30 direi, esatto, forse la cifra, ecco, 10. 20, 30 infatti, perché il vostro osservatorio ci consegna anche alcuni dati interessanti su durata, tasso medio fisso su queste durate da 20, 30 anni, e poi una cosa che mi incuriosisce: l'età di chi va a chiedere il mutuo, perché anche questo un po' in chiave congiunturale, cioè per cercare di capire se stiamo un po' meglio o un po' peggio, è importante. Quindi specialmente la fascia dei giovani, che sappiamo essere un po' più in difficoltà con la ricerca di lavoro, l'ottenimento di un introito stabile e duraturo, ecco, questo può dirci qualche cosa. Certamente, per quanto riguarda le durate, diciamo che ormai da parecchio tempo il 70% delle erogazioni si concentra sulle durate medio-lunghe, cioè dai 20 fino ai 30 anni, ma ovviamente perché sono durate che permettono, pur a fronte di un tasso leggermente più alto e quindi anche di un tot di interessi complessivo pagati in più, di diluire però il pagamento su tempi più lunghi e quindi ridurre l'importo della rata mensile, perché poi in tanti alla fine ragionano su quella che è la propria uscita nel mese rispetto al reddito, alle altre spese necessarie in famiglia, e quindi una rata più contenuta aiuta sia la famiglia a sostenere meglio il mutuo, ma ovviamente anche a ottenerlo, perché poi, come sappiamo, la banca, nel decidere se concedermi il mutuo o meno, va a vedere qual è il peso della rata sul mio reddito mensile, e indicativamente oltre un terzo non ci si muove, a meno che non parliamo di redditi molto elevati, per i quali anche una rata più elevata non limiti più di tanto le restanti necessità di spesa della famiglia. Per quanto riguarda la componente invece anagrafica, diciamo così, quello che si vede da tempo, consultando anche il nostro osservatorio, è che via via la fascia più dei più giovani, e quindi per più giovani ormai intendiamo anche quelli fino ai 35 anni, ha man mano perso notevolmente peso rispetto a quella immediatamente successiva, cioè tra i 35 e i 45, perché chiaramente uno si è spostato nel tempo, diciamo, di anno in anno, il tempo invece anagrafico nel quale le persone acquistano casa, decidono di fare questo investimento e quindi si impegnano anche nel mutuo. Cercano di avere una maggior solidità finanziaria ovviamente prima di imbarcarsi nell'operazione. Tutta una serie di motivi, per il fatto stesso che abbiamo detto tanto, lavorativa, c'è più tempo prima di inserirsi nel mercato del lavoro, i redditi iniziali purtroppo sono spesso molto contenuti, quindi bisogna aspettare una maggiore stabilità sia di ruolo economico che di ruolo professionale, che anche proprio di paga economica, e soprattutto vediamo che sempre più tardi i giovani, o comunque la gran parte dei giovani e meno giovani, entrano nel mondo del lavoro, quindi famosa polemica sui bamboccioni che rimangono a casa per più tempo, lo so, infatti, escono di casa tra più l'altro tardi, per creano... questi giovani in realtà recentemente è stato lanciato anche il leasing immobiliare, che non ha avuto proprio un consenso enorme, però probabilmente bisognerà che si faccia conoscere un po' di più questo strumento. Molti ascoltatori giovani ci stanno scrivendo, come per esempio Andrea, che dice: con l'insicurezza nel lavoro che c'è oggi, come possono due giovani investire sulla casa e indebitarsi per la vita, anche perché le case costano così tanto, in fin dei conti non sono fatte di polvere d'oro. Andrea ha ragione anche lei, in qualche zona d'Italia in realtà le cifre sono abbastanza abbordabili, probabilmente in città come Roma, Milano invece ancora il mercato è abbastanza difficile da approcciare per chi ha dei redditi contenuti. Volevo, Mauro, se mi consenti ancora, leggere un messaggio di un altro ascoltatore, perché mi dà l'opportunità di fare la domanda a Fabio Picciolini, un ascoltatore che vorrebbe abbattere la durata del suo mutuo, ha la possibilità di farlo con una cifra, evidentemente una sua disponibilità finanziaria. Quali sono le modalità, le condizioni a cui prestare attenzione? Perché, Picciolini, uno dei cambiamenti di questi anni che il mondo ha vissuto è stato anche quello di veder togliere dai contratti di mutuo la famosa penale di estinzione anticipata, corretto? È correttissimo, almeno ci sono alcune eccezioni, ma è correttissima la sua interpretazione. Diciamo che questa possibilità dipende dalla legge 40 del 2 aprile 2000. Un'altra legge sulla concorrenza? No, è la legge Bersani, delle famose le lenzuolate. Che erano chiamate a quei tempi. Niente, è stato previsto che i mutui successivi appunto al 2 aprile 2007 non vedessero più la penale per l'estinzione anticipata, mentre proprio come associazione di consumatori riuscimmo a limare moltissimo le penali per mutui già aperti. Tenga presente che in quel periodo c'erano addirittura le cosiddette penali finanziarie che potevano raggiungere il 30% del capitale residuo. Quindi, diciamo, per i nuovi mutui è estremamente utile, perché si può abbattere, si può chiudere parzialmente o totalmente un finanziamento. Il signore potrebbe fare due possibilità oltre all'eventuale surroga. La prima è quella di chiedere alla banca di rinegoziare il mutuo, e quindi riducendo il capitale, e poi vedrà quale sarà la rata secondo il nuovo piano di ammortamento. Ma la rinegoziazione è una libera scelta della banca, non è obbligata ad accettare, certo, la rinegoziazione della banca, altrimenti potrebbe tentare un mutuo di sostituzione, però in questo caso ci sarebbero costi molto più elevati, perché sarebbe come un nuovissimo mutuo, per cui dovrebbe rifare perizie, istruttoria, reintervento del notaio probabilmente. Del notaio, quindi come diceva prima il dottor Anetta, che saluto cordialmente, ricambio, Fabio, è un calcolo, è un calcolo che va fatto per vedere se c'è convenienza o non c'è convenienza. Allora, certo, vediamo, ci sono molti ascoltatori che ci stanno, bene, sia scrivendo che anche telefonando. Vorrei sentire Carla da Napoli, che ha tentato una surroga ma non è andata bene. Perché, Carla? Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Niente, io come dicevo prima ho acceso un mutuo nel 2007 e dopo 10 anni, quindi l'anno scorso, ho cercato appunto di effettuare una surroga, è un tasso fisso al 5%. Però mi hanno detto che non era possibile perché ero al di sotto, diciamo, come cifra residua dei 50.000 euro, e quindi la banca non era, diciamo, disponibile a effettuare questa surroga. Ora mi chiedevo se esiste realmente questo limite inferiore. Certo, lo chiediamo ai nostri ospiti. Perché magari per queste cifre qua una banca ti fa un prestito personale più che il mutuo. Roberto Anedda, sia sui mutui di surroga che anche sui mutui normali. E purtroppo questo non è innanzitutto un limite operativo di legge. Di no, esattamente. Cioè, quindi non è una giustificazione che la banca può adottare e dire è la legge che lo dice, è una scelta della banca. L'unica cosa che può dire è guardi, noi non operiamo, e purtroppo confermo che la gran parte delle banche tende a non farlo, non interveniamo su mutui per importi inferiori ai 50.000 euro, perché altrimenti, insomma, tutta l'operatività interna, i costi eccetera rispetto al ricavo, insomma, perché poi alla fine il discorso è semplicemente questo, puramente economico da parte della banca, risulta essere al di sotto di determinati standard. Ma questo standard è un comportamento generalizzato che voi sappiate, o perché il consiglio sarebbe proviamo con un'altra banca? No, sicuramente, ma infatti per quello dicevo, purtroppo devo dire che anche noi vediamo che, pur operando, insomma, con la gran parte, per non dire la totalità, degli istituti bancari, è una tendenza abbastanza diffusa, cioè si tende, ma diceva giustamente Deborah adesso, si spinge più verso il prestito personale a quel punto che verso il mutuo. C'è da dire attenzione, perché il prestito personale ha dei tassi di riferimento che sono notevolmente, ma voglio dire 10 volte anche quelli di cui stiamo parlando. Sì, per no, i infatti mutui. Bisogna stare attenti, perché chiaramente anche da questo punto di vista le banche negli ultimi anni soprattutto hanno spinto molto per, come dire, incentivare proprio la propria clientela al prestito personale piuttosto che andare verso una specializzata esterna, e chiaramente con i propri clienti magari riescono a essere, come dire, più favorevoli in termini di tassi, però parliamo comunque di tassi che a dir poco sono almeno del 5 o del 6%, che non sono il 2% di un mutuo a tasso fisso. Tra l'altro parlava di un 5%, la signora non vorrei che già avesse, cioè mi è venuto prima in mente che potesse già aver sottoscritto una forma di prestito personale, perché un 5% di tasso del 2007. Ah, beh, sì, è vero, perché aveva già, fisso, sì, sì, sì, era già a quel livello. Sì, sì, sì. Ma Deborah, sì. Io so che abbiamo molti ascoltatori in attesa, molti ci stanno scrivendo, però questo però è il tuo momento. Oh, devo fare i compiti. Eh sì, Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Questi che sono, me lo devi dire tu. Questi qui sono i Talking Heads. Sono i Talking Heads, che sono anche un gruppo storico, un gruppo cult, come si dice nel gergo. Dal fisco alla musica, veramente, noi stabiliamo delle relazioni che hanno dell'incredibile anche per noi stessi che li stabiliamo. Ma però fa parte dell'autorevole leggerezza. Assolutamente. Deborah, con il tuo permesso, ma eventualmente anche senza. Ma prego, accomodati. Io vorrei sentire la storia dalla viva voce di Paolo da Novara, che ci dice che è riuscito a destreggiarsi grazie ai tassi variabili molto bassi e poi ad approdare a un mutuo fisso vantaggioso. Allora, Paolo, una storia di successo la sua, buongiorno. Esatto, la sua ricetta la mettiamo a disposizione degli altri ascoltatori. Come ha fatto? Buongiorno. Prima di tutto ho ascoltato i vostri consigli da diversi anni, perché vi seguo dal 2000. Caspita. Dal 2000. Caffè pagato, caro Paolo, venga quando vuole a un caffè pagato qui da noi. E praticamente niente, seguendo appunto i vostri consigli che dicono di non stare mai fermi, di cercare di rinegoziare quando si è in difficoltà, oppure di sfruttare i momenti positivi di alcuni. Praticamente io avevo stipulato un mutuo a tasso fisso. Sì. Per non avere sorprese nel lungo termine. Quando poi, sentendo la BCE che continuava ad abbassare i tassi, sentendo che l'economia scendeva e quindi non c'era pericolo di rialzo dei tassi, ho rinegoziato con la banca un variabile secco. Mi davano tutti del matto, ho detto: ma cosa stai facendo? Beh, poi praticamente nel 2015 la banca mi chiama perché c'era un'offerta di passare a un tasso fisso all'1,58%. Ecco. Che cosa ho fatto? Ho cambiato subito. Ha ricambiato per la terza volta. Peraltro, Paolo, guardi, no, lei è stato anche seguito in maniera corretta dalla banca, perché non è detto che una stessa banca consenta tutti questi passaggi da un fisso a un variabile, poi di nuovo ad un ritorno, addirittura proposto da loro. Quindi anche questo è un tema interessante. Avevano fatto una promozione. Sì. Una promozione, la banca che diceva ai clienti e difatti io ho aderito e mi sono comprato con il risparmio, mi sono comprato un'automobile. Bravo. Molto Paolo, bene. Ottimo, grazie. Allora, grazie Paolo. Invece Gianni da Bari, cara Deborah, ha una domanda di tutt'altra natura e una storia direi forse meno positiva. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Volevo sapere se effettivamente le banche rimborseranno, visto che da un annetto, credo da un paio d'anni, i tassi, l'Euribor è negativo, rimborseranno quanto pagato, diciamo, in maniera fissa, pur avendo un mutuo variabile. Grazie Gianni. Variabile. Lei ha fatto la richiesta, perché questo è importante. O aspetta che lo facciano in automatico? Mi è arrivata una comunicazione da Unicredit, questa la banca, dicendomi che loro avrebbero poi provveduto, perché c'era una sentenza in corso, mi pare, una causa in atto. No, questo non, ci, non lo sappiamo, magari Gianni non lo sappiamo noi. Detto questo, lei faccia una cosa comunque, una letterina al suo direttore di banca la mandi, magari proprio facendo riferimento a questa comunicazione che hanno mandato loro, e comunque gli Euribor sono ancora in negativo, lo saranno probabilmente ancora per un po', per cui questa restituzione spetta alle persone che hanno un mutuo a tasso variabile, appunto parametrato a questi tassi interbancari. Anedda, le risulta che le banche non stiano restituendo? A me risulta che qualcuno invece lo abbia fatto, però bisogna stimolarle. No, sicuramente diciamo che da subito la gran parte si è adeguata, poi c'era stato quell'attimo di panico, quindi incertezza, diciamo, non ci siamo mai trovati con un Euribor negativo, che si fa? Però siccome gli stessi contratti non prevedevano niente da questo punto di vista e specificavano Euribor più spread, devo dire che insomma, anche dai riscontri che abbiamo avuto noi, la gran parte delle banche hanno semplicemente fatto la somma algebrica in questo caso, quindi detratto la parte negativa dell'Euribor dallo spread e addebitato il tasso netto, ovviamente più basso, di quello teorico al cliente. Però è anche vero che a un certo punto è dovuta intervenire proprio Banca d'Italia, dando delle indicazioni precise, dicendo attenzione, si chiarisce che l'Euribor negativo va considerato a favore del cliente, che quindi va detratto nel calcolo complessivo, a meno che il cliente non abbia sottoscritto un mutuo nel cui contratto è specificato, e alcune banche hanno emesso contratti con questa clausola del tutto legale, che in caso di mutuo a tasso variabile di Euribor negativo si intende che comunque l'Euribor non possa essere conteggiato al di sotto del valore zero, o qualunque esso sia in genere zero. Questo vuol dire che in quei casi un mutuo a tasso variabile comunque, per poco che costi, costerebbe almeno il valore dello spread. Valore del, sì. E quindi non mi avvantaggerei di questo 0,33 o 0,37 negativo che in questo momento vige sul questo momento, ormai da un anno, come diceva Gianni, vige sull'Euribor, proprio perché ci sarebbe questa clausola. Però le banche che hanno dato questo tipo di clausola sono veramente poche, e alcune hanno anche fatto marcia indietro. Consiglio giusto è proprio quello di fare comunque come minimo una richiesta formale alla banca, visto che poi in questo caso la banca citata Unicredit anche a sua volta ha scritto al cliente dicendo verrà rimborsato, però insomma ricordarlo. Qualche ascoltatore ci sta dicendo che la sua lo ha fatto automaticamente, per cui in realtà non è qualcosa che si è disperso adesso nel dibattito, ma un tema che le banche si pongono. Qualcuna non sa bene come fare per fare questa restituzione, banalmente molti ricalcolano il piano di ammortamento delle rate da pagare in futuro alleggerendole un pochino. Caro Mauro, vogliamo... Cara Deborah. Sì. Prego. No, volevo ancora magari ricoinvolgere Fabio Picciolini sul tema dell'universo mondo dei mutui, che in questi anni ci ha raccontato di tutto e di più. A distanza di questi 7 anni dal varo della vostra moratoria, che poi si è chiamata Piano Famiglia, poi è stato creato un fondo di solidarietà per venire incontro alle famiglie in difficoltà con il rimborso delle rate. Insomma, adesso si chiama Crediamoci tutta l'operazione, perché poi è stata varata questa intesa formalizzata ulteriormente tra ABI e Associazione dei Consumatori. Qual è il suo personale bilancio rispetto a tutta questa iniziativa di sostegno alla famiglia messa in piedi? Tra l'altro sono state, chiudo con una cifra, quasi 150 famiglie hanno sospeso il pagamento delle rate del mutuo in questi anni. Se mi permette, però vorrei tornare un attimino sul discorso che è stato fatto prima sulla surroga sotto i 50.000 euro. Al mio passato consumerista, io inviterei quei signori a fare immediatamente un reclamo e riconoscere dall'ABF, perché non esiste nessuna legge che consenta a una banca di dire no alla surroga. L'ABF è l'arbitro bancario finanziario. Solamente per precisare ha questa, fatto bene. Se no passa che le banche possono potrebbe passare che le banche possono rifiutare la surroga. La surroga non è rifiutabile, anzi ci sono i tempi fissi per portarla a termine. Detto questo, il giudizio ovviamente è positivo, con una riserva. L'accordo che abbiamo fatto noi come associazione dei consumatori nel 2009 era un accordo più ampio di quello attuale. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché noi facemmo l'accordo quando il famoso fondo, appunto, che lei ha citato, si chiama in gergo il fondo Gasparrini, era già dal nome della presidente di Federcasalinghe, esatto, che lo ha voluto fortemente, esatto, sì. Era già stato emanato, ma per anni è stato fermo perché mancavano i fondi, e quindi noi facemmo questo accordo che ha un passaggio in più rispetto a questo fondo, tutela anche i disoccupati, chi è in cassa integrazione, chiedo scusa, cosa che invece il fondo nazionale, il fondo del MEF gestito dalla CONSAP, che è la società di gestione di tutti i fondi solidari in Italia, invece prevede solamente alcune situazioni tipo licenziamento, ovviamente per alcuni motivi, gravi motivi di salute e via dicendo. Quindi era un pochino più ampio, ma purtroppo per norme bancarie nazionali ed europee quella possibilità non poteva essere ripetuta oltre un certo limite di tempo. Ricordo che tentammo in tutti i modi di migliorare il fondo appunto pubblico, in parte ci siamo riusciti, ma non su questo passaggio. Inserendo per esempio anche la possibilità di sospendere mutui e finanziamenti alle partite IVA, perché mi ricordo che anche questa è stata una vostra grandissima battaglia. Esatto. C'è da aggiungere che c'è un'altra possibilità oggi che sta in scadenza purtroppo, che è la legge finanziaria del 2015, che prevede anche per i mutui in un caso specifico, oltre che per i prestiti personali, la possibilità di sospendere appunto i pagamenti per 12 mesi, però è una norma in scadenza, vale solamente 12 mesi e vedremo cosa fa il governo, se deciderà di rinnovarla o non rinnovarla. Esatto. Ci fermiamo un istante, Deborah, perché lo sai, adesso 11:45. È il momento del... Siamo in ritardo di 20 secondi oggi. Caspita. Traffico! Due di denari. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. A casa dov'è? Allora, domande di ogni tipo stanno arrivando. Rassicuriamo gli ascoltatori, Mauro, che ci stanno scrivendo che hanno il famoso mutuo sottoscritto qualche anno fa in franchi svizzeri. È un tema talmente delicato che mi ha creato, quando io ne ho parlato qualche anno fa a due di denari. Anche ma quanti anni è che parli di che risparmio in onda alla radio? Ma dal 2004. Ah, caspita. Quando hai ereditato Salva da Danaio, esatto, andavo all'asino. Avevo il grembiulino a scacchetti bianco e bianchi e rossi. Poi non dirmi che non sono galante con te. Poi è arrivato Marco Lo Conte e mi ha detto: senti, voglio fare un'altra cosa, vieni a prenderti Salvadanaio da me. Io me lo sono preso e ancora porto avanti questo orario. Ed è dal 2004 24. Che tu che ci parli di questi mutui in valuta. No, da un po' più tardi, però i mutui in franchi svizzeri ne parliamo in una puntata specifica la prossima settimana, promesso, qua lo sottoscriviamo davanti a tutta la platea degli ascoltatori di Radio 24, perché merita un focus tutto dedicato. Lo stai giurando sulla mia testa. Sulla tua, esatto, sul CD di Chapter 11. Poi, detto questo, che altro... Fiorenzo da Milano ha una domanda che può interessare molti ascoltatori. Buongiorno Fiorenzo, ci dica. Sì, buongiorno a tutti. Domanda semplice, sto affrontando un mutuo per l'acquisto di una casa, un mutuo di 25 anni, e mi è stato proposto dal costruttore di fare l'accollo di mutuo fondiario. Sì. In questo caso, successivamente, si può fare lo stesso da surrogo con un'altra banca o sono vincolato e devo mantenere comunque questo mutuo fino alla fine? Grazie Fiorenzo. Roberto Anedda. Sì, no, si conferma che l'accollo è semplicemente la formula con la quale il singolo acquirente si accolla, appunto, con termine tecnico, tanto per tirarne fuori un altro, la parte del mutuo complessivo che il costruttore aveva sottoscritto a garanzia e a sostegno dell'immobile complessivo realizzato, e diventa a quel punto poi un mutuo indipendente intestato al singolo acquirente e che quindi poi allo stesso modo può essere surrogato tranquillamente con qualsiasi altra banca. No, mi fa un po' sorridere questo caso, perché Fiorenzo sa già che lo vuole surrogare, evidentemente ha già visto qualcosa che non lo convince, o forse suppone che succede, sia un po' caro. Esatto, sì, esatto. Cioè, non è stato un mutuo concordato e stabilito da lui. Esatto. Le può condizioni sottoscritte dal costruttore potrebbero risalire anche diversi anni prima, parliamo di una casa in costruzione. Infatti questo secondo me potrebbe essere il problema del nostro ascoltatore, ma anche di molti altri. A volte i costruttori hanno acceso questi mutui in altre epoche e poi magari la costruzione non è stata così celere. Il consiglio allora in questi casi è sempre alti. Comunque, prima di accettare, diciamo, non dico passivamente ma tranquillamente, di accollarsi il mutuo, di farsi dare come da diritto copie del contratto integrale, verificare clausola per clausola, eventualmente anche facendosi aiutare da qualche esperto, che non ci siano nascoste nelle pieghe del contratto alcune limitazioni a quelle che possono essere invece capacità di surraga o di altre cose. Gli esperti da cui farsi aiutare sono i notai, che salutiamo, riuniti a congresso in questi giorni a Palermo. Ma perché lo cito? Non perché mi fa piacere salutare i notai che sono lì, ma perché anche loro questa mattina, proprio sul Sole 24 Ore, raccontano come dal loro punto di vista, in base a tutti gli atti formalizzati nei loro uffici, il mercato immobiliare resterebbe invece in questo momento un pochino fermo, non c'è tutta questa vivacità sagacità che invece ci racconta il settore del credito immobiliare. Quindi bisognerà analizzare un po' meglio questo raffronto di statistiche. Evidentemente questa ripresa non è poi così consolidata come qualche dato ci dice, ma altri dati come questo ci segnalano la posizione contraria. Allora, no, volevo solamente ricordare all'ascoltatore che aveva chiamato prima che non mandiamo in onda sul risparmio fiscale che si ha per chi sottoscrive il mutuo o semplicemente mette nel 7,30 le spese per interessi pagati appunto sul mutuo e da quelli ha le sue detrazioni. Sì, e poi teniamo presente che col 7,30 web, cioè con la precompilata come che abbiamo da ormai un paio d'anni, l'alimentazione da parte dell'istituto bancario nel 7,30 è in automatico, quindi sì, sempre bene verificare naturalmente, però viene trasferito il dato in modo automatico. C'è imposta per te. Cara Debora, abbiamo un po' modificato la sigla abituale di C'è imposta notato, per te. Ho notato, ma come mai questa novità? Ma perché, guarda, questa nostra rubrica oggi la voglio dedicare all'IVA, naturalmente, che sai che... Ma naturalmente sottolineerei anche il naturalmente. L'IVA è, come dice il poeta, mistero senza fine bello. Che ti guarda sempre. Ti guarda, soprattutto guarda te, Debora. L'IVA però è anche un'imposta, sarà perché ha questo nome femminile, perdonami, ma è un'imposta così volubile. E allora, proprio sull'acqua si sta consumando una diatriba, o diatriba, o diatriba, non so più dove va l'accento, che da anni si trascina, perché uno si immagina l'acqua è sempre acqua. Direi, e quindi, può essere gasata, un po' effervescente, quale naturale. Quale aliquota, quale percentuale di IVA vuoi metterci? Scegline una. La faccia di Giulia Lauricella di là. Che Giulia Lauricella con è ammirata, vero? Sì, lo so, perché le ragazze sono particolarmente sempre coinvolte quando io parlo di fisco, non so come mai. Allora, uno si immagina che l'IVA abbia sempre la stessa aliquota, cioè l'acqua è acqua e quindi perché dovrebbe cambiare? Sbagliato! Sbagliato perché un conto è se l'acqua sorgiva, viene presa dal comune, distribuita nei rubinetti con l'acquedotto, l'acqua del sindaco, lì la mettiamo al 10. Vabbè. Se l'acqua è minerale, la mettiamo al 22. Ma non è un genere alimentare che avrebbe l'aliquota incentivata al 4, agevolata al 4? No. Debora, lascia stare. L'ho fatta un po' troppo sopraffina. Ci sono cose che la ragione non conosce, no? Come dice Pascal, noi ci rifacciamo a questo quando parliamo di IVA. Allora, però cosa succede? Mettiamo che tu l'acqua la prenda sorgiva, ma la metti nei boccioni. Sai che ci sono questi boccioni negli uffici, nelle fiere, nei convegni, si trovano spesso. Ecco lì come... Ah, quelli lì di plastica con... Allora, per alcuni anni si è andati avanti a dire no, ma questa qui effettivamente è un po' come fosse l'acqua del rubinetto, io poi dal rubinetto prendo e metto nel boccione, quindi pago l'aliquota più bassa. Poi invece però l'Agenzia delle Entrate ha detto no, questa qua invece si merita un'aliquota maggiorata e certo, quindi attualmente al 22 è più bella. E speriamo che si fermi lì. Allora, qualche contribuente ha detto, ma caspita, ma con questa interpretazione, peraltro retroattiva, ecco, con questa interpretazione... In palese violazione dello statuto del contribuente. Lasciamo stare lo statuto del contribuente. Allora ci state un pochino danneggiando e sono andati a dirlo ai giudici tributari. Hanno detto, signori giudici, però non è mica giusto che dopo 3-4 anni si svegli a dire che l'aliquota giusta era un'altra. E i giudici stanno dando ragione ai contribuenti. Quindi, in questo momento, nel paese... Nel sostanziale disinteresse, nell'indifferenza di tutti, anche nella tua indifferenza, infatti, cara Debora, è anche un po' mortificata colpevole di tutto questo. Si sta consumando questo scontro all'arma bianca sull'acqua, la guerra dell'IVA e dell'acqua. Azzurra, arma chiara. E con questa notizia, della quale probabilmente dovremo ancora parlare, perché se non si è conclusa qua questa battaglia, ancora altre puntate dovremo scrivere, c'è Peter Bescapè che ha, come vedi, le dita protese verso di noi, che ci sta indicando che la trasmissione sta volgendo al termine. Quindi noi salutiamo Roberto Nedda, che va a casa con i suoi mutui, ma presto tornerà a trovarci con tutte le novità volentieri su questo mercato. E poi Fabio Picciolini, a presto. A presto. Buona grazie giornata. Auguriamo un buon fine settimana, esatto, a tutti, ma soprattutto la nostra squadra anche di ragazzi. Certo, a Marco Lombardo, a Giulia Lauricella, anche a Peter Bescapè, dai, oggi sono buono, ma soprattutto io vorrei fare tanti, tanti, tanti cari auguri ad Alessandro Milan per domenica sera. E qua la chiudiamo subito, perché io di temi calcistici non parlo, mi sono imposta questo silenzio stampa sull'argomento, dati i miei colori preferiti, per cui vi promettiamo che però torniamo lunedì sempre vi